Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno, buongiorno e benvenuti. Iniziamo questo giorno speciale, è il 24, la vigilia, con brio, e lo facciamo parlando di spezie. Perché? Perché le spezie ci danno una marcetta in più, si usano tutto l'anno, ma soprattutto in questa stagione, in questo momento particolare, sono davvero alleate della nostra salute. Aggiungono anche molto sapore ai nostri piatti. Ne parliamo con un esperto, un amico della nostra trasmissione, che ci racconta con competenza e con brio tante notizie che riguardano la nostra salute, il professor Ciro Vestita, nutrizionista e fitoterapeuta dell'Università di Pisa, autore di Cibi ed erbe che curano. Professore, buongiorno. Buongiorno a voi, eccoci. Professore, io la invito a parlare di spezie. A me le spezie fanno Natale. Dunque, le spezie sono essenzialmente curative, oltre a dare aroma, oltre a dare piacere, tant'è che il termine speziale deriva proprio da spezie. E fino all'avvento della penicillina sono state le uniche armi che noi avevamo per combattere varie patologie. Quali in primis? Beh, essenzialmente la curcuma. La curcuma ha ricevuto veramente tanti studi, adesso sono stati fatti tanti studi su di essa, soprattutto come antinfiammatorio delle vie intestinali. Qualcuno parla anche di profilassi per i tumori, però io qui ci andrei pianino. Ha una tradizione millenaria. Pare che oro, argento e mirra regalati, donati dai re magi al piccolo bambino Gesù non fossero in realtà questi, ma l'oro era rappresentato dalla polvere di curcuma, anche perché Gesù bambino con l'oro che ce ne faceva un certo pochino, no? Cioè, non era il tipo da gradire oro. La curcuma macinata è praticamente una curcuma, è una spezia che può essere usata in maniera costante e continua. Come? Bisogna saperla usare. Ecco, professore, verrei proprio lì, perché lei ha scatenato l'inferno, come si dice, raccontando alle amiche e agli amici di Obiettivo Salute come va preparata la camomilla. Esatto. Ecco, esatto. Mi raccomando, se vi siete persi la puntata andate a riascoltarla. Comunque non va l'acqua calda con la camomilla. La curcuma, come dobbiamo usarla? Esatto. Perché siccome è utilissima soprattutto per i bambini e per gli anziani, e siccome i bambini spesso hanno poco appetito, allora io cosa faccio? Quando preparo la pasta, ad esempio, per i bambini, gli spaghetti, eccetera, prima della bollitura metto un cucchiaino di curcuma. Cosa accade? La pasta si colora di giallo, diventa gradevolissima anche dal punto di vista visivo, ottico, i bambini la mangiano più volentieri. Nel contempo noi abbiamo dato in questo modo tanti polifenoli, tanti antibiotici naturali capaci di proteggerci in questo periodo così difficile. Io quindi sa la che curcuma la metto anche, mi dica se sbaglio, se faccio bene, nella salsa di pomodoro, quando faccio la salsa. Ovunque si può mettere, ovunque. Una spezia che poi con un po' di olio, estrema tranquillità. Non è la stessa cosa della noce moscata. Attenzione, se io la noce moscata la uso troppo, in quantità eccessive, se io esagero posso avere anche problemi renali, quindi non tutte le spezie sono uguali. Un'altra spezia meravigliosa è lo zenzero, il ginger, però io dico sempre una cosa, il ginger viene da lontano, viene dall'estremo oriente, spesso vedo queste radici di zenzero che sono palestrate, sono gonfie, sono enormi, in realtà lo zenzero è un pochino più piccolino di questi qui. Allora io, siccome non so che pesticidi sono stati dati in quelle zone lontane, non so quali diserbanti sono stati usati, uso un prodotto italiano che è il rafano, coltivatissimo in Basilicata, si chiama Armoracea rusticana. Vi assicuro che se voi lo usate ne rimanete incantati. Il prezzo è modestissimo e soprattutto è fresco, perché non ha fatto 20.000 km di viaggio. Quindi in questa maniera noi abbiamo Armoracea rusticana, questo è il suo nome, abbiamo un pizzico praticamente di sapore. Comunque assomiglia un po' alla senape, perché poi è della stessa famiglia. È vero, un po' piccantina. Frequentissima, ed è veramente un toccasana. Senta, poi, professore, ma è vero che è una spezia brucia grassi? Sa che noi smascheriamo le bufale. Ecco. L'unica cosa che brucia i grassi è l'attività motoria intensa. Facciamoci una bella corsetta di un'ora, per chi se lo può permettere, e perdiamo subito mezzo chilo. È quello che brucia i grassi. Non esistono, a mio avviso, spezie che bruciano i grassi, né tisane che bruciano i grassi. Per bruciare i grassi bisogna muoversi. Ora però hanno inventato questi biciclette, questi motorini elettrici, ma tu lo sai, Nicoletta, che noi, se continuiamo così, soprattutto ai nostri ragazzi, a dargli non più la bici ma il monopattino, questi fra 10 anni saranno tutti ciccioni. Ma torniamo alle spezie. Apriamo e chiudiamo le parentesi, la buttiamo lì. Allora, la curcuma l'abbiamo messa a posto. Sì. Lo zenzero l'abbiamo sostituito. Esatto, i chiodi di garofano. sono un potente, una spezia potentissima. Immaginate che quando non c'erano i dentisti, quindi parlo di 50 anni fa, le nostre nonne nel dente cariato mettevano un chiodo di garofano. Questo permetteva una terapia antimicrobica, ma soprattutto antidolorifica, e non ci deve meravigliare uno stretto parente di chiodi di garofano e la mirra, che è un fortissimo anestetico, che adesso viene riutilizzato perché fa meno male degli anestetici locali e generali in generale. E ricordiamoci che mirrato era il vino che il soldato offrì Gesù sulla croce per lenire i suoi dolori. Quindi la storia ci insegna che queste spezie sono veramente fantastiche. E poi, Nicoletta, se queste sono le spezie maggiori, abbiamo le spezie minori, che non sono minori nel loro valore, sono semplicemente nostre, cioè del Mediterraneo, e sono potentissime. E qui parlo del finocchio, parlo praticamente del coriandolo, parlo della salvia. Come fa ad ammalarsi l'uomo che abbia la salvia nel suo giardino? È questo che recitava la scuola salernitana. Ricordo, questo è un grande vanto nostro, che nella nostra università di Pisa dei colleghi hanno isolato in salvia rosmarina una molecola chiamata carnosolo, capace di fare profilassi antitumorale. E quindi le spezie minori bisogna utilizzarle tantissimo. Ci sono delle attenzioni e delle avvertenze per prendere da queste spezie minori, ma come lei ha sottolineato, non certo meno salutari di quelle con cui abbiamo aperto la nostra chiacchierata. Non sapete usare. Ecco, allora noi qua, io per questo l'ho invitata, prof. La salvia va veramente presa con le molle. Se io prendo una tazza di salvia, un infuso di salvia e non lo merito, la pressione mi va alle stelle. Quindi bisogna sempre, la fitoterapia va sempre fatta dai medici, dai farmacisti, dagli erbolisti, comunque si siano, ma va sempre guidata. E qui racconto una storia molto bella per far capire il valore enorme della salvia. Tito Livio ci racconta che il patrizio Calpurnio a un certo punto decide di fare una festa bellissima in casa sua. Domus Romana, noi sappiamo, è il tetto apribile sopra, quindi lui invita tutte queste persone. Quando sono ubriachi, dopo abbondanti di bagioni, lui comincia a far cadere dal tetto che si era aperto milioni di fogli di salvia, di fiori di salvia, eccetera, frantumati, fra parentesi. La stanza si riempie di un gradevolissimo odore, lui chiude il tetto, chiude la porta a chiave, il giorno dopo erano tutti morti. Perché? Perché sono... Non è una bellissima storia, professore. Lo so, però questo per dire, state attenti alle erbe, perché non sono tisane della nonna, vanno saputi usare sempre con un consiglio di qualcuno che vi possa guidare. Mentre aggiunta, come facciamo d'abitudine in cucina, negli intingoli, oppure... Non ha effetti collaterali, Le foglie di salvia si mangiano anche fritte? Si mangiano anche fritte. Tornando alla salvia, siccome dire a un ragazzino a 17 anni che ha cominciato a fumare prenditi la tisana di salvia, questo qui te la tira dietro perché il sapore è orribile, allora noi per dare il carnosolo a questi ragazzi diciamo alle mamme: preparate tante zuppe minestre, se mettete 3 foglie di salvia sono sufficienti nella zuppa che state preparando, il carnosolo è assicurato. Quindi basta sapere come preparare i cibi e le spezie possono essere assunte. Professore, quale altro trucchetto segreto, quale altra storia ci vuole raccontare oggi? Allora, la spezia che io, tra parentesi, adoro tantissimo è poi la cannella. La cannella è qualcosa di fantastico perché abbassa fortemente la glicemia. Quindi un soggetto che abbia una modestissima glicemia elevata, ripeto modestissima, può tentare con il medico curante di utilizzare la cannella per abbassare questo valore minimale. Se si tratta di un diabete pesante, assolutamente no. Ma la cannella è un invito questo alle mamme. In questo periodo in cui tutti siamo a casa, in cui i bambini mangiano di più, in cui i bambini mangiano tante cosacce che a me non piacciono, voi prendete una mela, o meglio ancora una mela cotogna, la fissurate un pochino con un coltellino, la cospargete di cannella, miele e noci, e voi date ai vostri bambini una merenda ideale, pazzesca. Meglio ancora della mela, Nicoletta, è la mela cotogna. La mela cotogna non la usa più nessuno perché siamo tutti signori, eppure costa 2 lire. La mela cotogna, immagina, è l'unica, se tu fai le marmellate, non avere bisogno di addensanti. Perché? Perché è ricchissima di lignina, di pectine, tant'è che il termine mela cotogna deriva da marmello, che in portoghese vuol dire appunto marmellata. In soldoni, se tu invece delle mele usi le mele cotogne, hai più salute, perché prendi una marea di fibre, una marea di lignina naturale, e dai ai tuoi bambini un piatto sconosciuto di cui andranno matti, dove, ripeto, non c'è nemmeno 1 mg di grassi, questo è importantissimo. E poi profumano le mele cotogne? Profumano senz'altro. Montale ci racconta come lui nella sua cantina, la chiamava, aveva sugli assiti di faggio, aveva praticamente i meloni, le mele, come usava una volta, i cachi, e quindi c'era quel questo profumo, e lui andava spesso in questo posto proprio per annusare queste che poi sono sostanze aromatiche volatili. Ti dico solo una cosa, chi crede poco a queste cose. Adesso è il periodo di kiwi, che hanno un potere inimmaginabile, ma se tu compri kiwi al supermercato, tu poi ci giochi a tennis, perché sono duri da morire. Bene, tu cosa devi fare? Prendi un sacchetto di amido di mais, metti 10 kiwi dentro e 2 mele, lo chiudi e lo tieni in cucina. Le sostanze aromatiche volatili della mela, che sarebbe l'etilene, fa maturare fortemente i kiwi, tanto da renderli poi ridili, mangiabili. E quindi bisogna approfittare di questi piccoli segreti, anche perché effetti collaterali zero. Professor Vestita, lei mi deve regalare la tisana di Natale. Allora, la tisana di Natale è semplicissima. In primis io metterei la malva, che fra parentesi, per chi ama andare per i campi, come faccio io tutti i giorni, adesso è onnipresente nelle campagne. Bene, prendere un litro d'acqua bollente, mettere dentro una piccola parte di malva, una piccola parte di gramigna e una piccola parte di tiglio, quindi un cucchiaino di ognuno, frantumati. Rimanere in infusione per una ventina di minuti, mettere un cucchiaino di miele, filtrare e bere nella giornata. È un sapore micidiale, tenendo conto che la gramigna pulisce le vie urinarie, la malva è l'antinfiammatorio per eccellenza, il tiglio calma quella fame nervosa che noi tutti abbiamo in questo periodo. E poi ripeto, sono tisane, queste veramente senza effetti collaterali che tutti possono prendere. Professor Vestita, grazie per essere stato grazie con a noi. A presto. Grazie, a prestissimo, grazie. Buona giornata. Bene, allora non mi resta che darvi appuntamento, se poi vi manca la ricetta scriveteci, vi do appuntamento come sempre dopo il GR delle 12, perché noi in questi giorni stiamo insieme, prendiamo spunto da idee, suggerimenti che ci regalano tanti esperti che vengono a trovarci, perché noi riusciamo insieme ad affrontare questo periodo sostenendoci, perché o ci salviamo tutti o non si salva nessuno, e anche l'aspetto emozionale va assolutamente coltivato e protetto. Buona giornata.